Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Se ci ascoltate in replica alle 20:45, buona serata. Allora, la mail unabusoalgiorno@radio24.it, mentre il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore è Guardie o Ladri, oppure se preferite robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Se lo visiterete, leggerete gli articoli che scrivo e li commenterete, a me farà molto molto piacere per continuare il dialogo che da anni ho avviato con voi in radio e attraverso il giornale. Allora, leggo la stampa.it del 3 dicembre 2008. Cassazione, linea dura con i fannulloni. I funzionari comunali sono pedinabili. Chi timbra il cartellino ed esce rischia una condanna per truffa. Si tratta, in buona sostanza, di un orientamento della Cassazione con una sentenza depositata il 2 dicembre 2008, quindi recentissima. In buona sostanza dice che il comune, comunque una qualunque pubblica amministrazione, se si accorge che il proprio dipendente, anziché rispettare l'orario di lavoro, si fa i comodi suoi fuori dal luogo di lavoro, va a fare la spesa, dà da mangiare ai pesciolini, accompagna i figli allo zoo, va dall'amante, bene, commette un reato, è truffa. Subisce una condanna e il comune, in questo caso, può anche pedinarlo con un investigatore privato. Allora, il caso in realtà è proprio vero, reale, è accaduto. Dove è accaduto? Nel comune di Novoli. Ci troviamo in provincia di Lecce, splendida provincia barocca della nostra meravigliosa Italia, dove un funzionario proprio fedele, insomma, non mi pare che fosse. Allora, per parlare di questo caso molto interessante, che va sulla linea dura che ormai da tempo c'è nei confronti dei fannulloni, così come sono stati appellati dal ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, noi abbiamo in collegamento il vice sindaco di Novoli, l'avvocato Alba Metrangolo. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Allora, intanto una curiosità, ma insomma voi l'avete pedinato questo funzionario infedele oppure no? No, che io sappia no, non è assolutamente questo il motivo. Credo che la possibilità che il funzionario possa essere pedinato è una conclusione dell'orientamento nuovo che la Cassazione ha evidentemente intrapreso, anche così come giustamente lei ha sottolineato, dopo quella che è la linea dura intrapresa appunto dal ministro Brunetta. Diciamo che è un'aggiunta rispetto a quelle che si erano già le prove che potevano essere determinanti per la condanna appunto di inefficienza. Certo. Allora, questo funzionario, che oltretutto nei ricorsi si spacciava per dirigente, tale non era, invece che lavorare andava nel negozio della figlia, giustamente teneva famiglia e doveva aiutarla. Il tribunale pugliese lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per truffa. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza, niente, lui più duro del Mogano, è andato avanti, ha fatto ricorso in Cassazione, anche la Cassazione insomma ha detto no, basta, non c'è niente da fare, devi essere condannato. Allora, quello che mi stupisce però, avvocato, è che questa persona ha chiamato in causa la pubblica amministrazione, dice no, ma guardate che il comune di Novoli sapeva perfettamente che io ero assente e stavo da mia figlia, insomma vi chiama in causa, ma è possibile una cosa del genere? Guardi, allora innanzitutto dobbiamo precisare una cosa fondamentale. Questo caso risale a circa 10 anni fa. Ovviamente io personalmente non facevo parte dell'amministrazione, né tantomeno nessuno dei miei colleghi attualmente in carica era presente all'epoca. E così diciamo. Quindi, anche quanto tempo ci mette, ecco, una sentenza per arrivare a giudizio. Esatto. Poi prendiamo anche un altro aspetto della vicenda. Noi abbiamo sempre assistito in questi anni ad una considerazione soprattutto per chi ricopre delle cariche dirigenziali nell'ambito appunto amministrativo di una formula di prestazione di fine e non di mezzo, mi spiego meglio, ossia è come se diciamo che la gestione del tempo fosse a disposizione del funzionario, del dirigente, e che quello che comportava l'esecuzione pratica, l'esecuzione efficiente della mansione era semplicemente appunto la finalità, ossia se comunque l'impiegato era efficiente e faceva tutto quello che gli si chiedeva e lo faceva bene, diciamo che all'amministrazione, cioè comunque al sindaco in carica o ai superiori, doveva star bene. In fondo anche nella magistratura c'è questo spirito, quindi anche i magistrati in pratica sono abbastanza liberi nella gestione del loro tempo, pur essendo degli impiegati pubblici, almeno fino ad ora è stato così. Ora, c'è sicuramente un cambio di atteggiamento, quindi non solo efficienza, non solo finalità, ma anche presenza. Sì, anche perché sarebbe anche duramente contestabile, a mio giudizio, quella linea che lei prima rappresentava, perché se una persona, voglio dire, in un'ora svolge il suo lavoro, c'è da pensare quanto potrebbe... Non sto dando dei giudizi di merito, assolutamente, no, chiaro, carissimo, però voglio dire, li do io nel momento in cui se una persona svolge il proprio lavoro in un'ora, per le altre sette viene pagato, benissimo, continua a lavorare e a fare di più, ne guadagnerà in efficienza, efficacia e produttività l'amministrazione stessa, insomma. No, ecco. Sì, magari sì, insomma, questo è lo spirito. Quello che poi risulta importante da questa sentenza, a mio avviso, così insomma dal punto di vista prettamente professionale, certo, in questo caso sono più avvocato che amministratore, che vice sindaco, chiaro, è assolutamente la corresponsabilità dettata nei confronti del sindaco. Certo. Quindi non solo c'è un obbligo di controllo da parte del sindaco, ma addirittura c'è una corresponsabilità di tipo oggettivo, quindi si stringe ancora di più la vita intorno a quello che è l'atteggiamento di controllo e di chiusura nei confronti Sì, dei dipendenti pubblici. Anche perché è importantissimo questo. Assolutamente, fa bene a sottolinearlo, anche perché la Cassazione scrive testualmente: la pubblica amministrazione, in questo caso appunto il comune di Novoli, e i rappresentanti di un ente pubblico, in questo caso il sindaco, la giunta, certo, quel che è, certo, non potrebbero autorizzare o accettare passivamente un comportamento illecito del proprio dipendente, certo, quindi se avessero saputo della truffa commessa, esatto, e non avessero agito, avrebbero commesso a loro volta un reato, certo, questo è normale. Ovviamente del sindaco in carica all'epoca e non di quello. Assolutamente. No, ma noi stiamo parlando di un principio anacronistico. Assolutamente. Noi stiamo parlando di un principio generale, vale a dire, certo, di quello che oggi deve accadere. Vale a dire deve accadere che il dipendente comunale deve lavorare, punto, così come il dipendente pubblico, così come anche il privato. Deve essere presente. E comunque c'è una corresponsabilità di chi non consente che questo accada. Le chiedo questo, avvocato, ma mi piace più chiamarla vice sindaco, perché in questo ruolo l'abbiamo chiamata a interloquire con noi. Per questo motivo mi ha chiamato. Esatto. Quanti fannulloni avete voi nel vostro comune? Ce lo dica, dato, non ci ascolta nessuno. Quanti ne hanno tutti i comuni d'Italia, insomma, diciamo che non c'è un'eccezione nel caso di specie. Ecco, ma come no, li controllate? Fannulloni. E nel caso, guardi, le posso anche assicurare questo, nel caso di specie stiamo parlando anche di una persona che veramente invece è molto preparata e molto presente. Peggio, un aggravante, ed è un aggravante. No, e questo è un aggravante, però, attenzione, perché beh, se no, fosse no, me lo lasci dire, lo dico, che no, è un aggravante, no, perché sono interlocutoria. Perché se fosse una persona non capace, uno potrebbe pure chiudere un occhio e dice vabbè, poverino, non ci sa fare, va a aiutare la figlia al negozio, vabbè, va, poi torna. Beh no, se è capace, no, deve stare lì a lavorare, io lo pago con le mie tasse, perché lui produca. Lo dicevo in un altro senso, lo dicevo che appunto nello spirito della normativa precedente si tratta di un funzionario che comunque ha svolto molto, ma molto accuratamente quelle che erano le proprie mansioni, svolgendo anche delle attività over rispetto a quelle che erano le sue competenze, sì, le sue specifiche competenze, magari rimanendo in comune fino alle 11 di sera, non so se mi spiego, in sì, quest'ottica, nell'ottica quella precedente, appunto, della finalità, quattro certo, e mezzo. Certo, ecco. Certo. Beh, lei tocca un tema interessante, vale a dire il fatto che ci sono molti dipendenti pubblici che in realtà lavorano anche di più di quello che dovrebbero e per questo non vengono retribuiti. Esatto. Quindi effettivamente questa è una cosa interessante che lei dice. Un'ultima domanda le faccio, avvocato Metrangolo, ma avete qualche sistema particolare di controllo, cartellini, si timbra oppure no, sì, è il sì, dirigente sì, che dubbio, è responsabile? Certo, vabbè, insomma è chiaro che ci sono i controlli, beh, insomma entriamo lì nell'ambito del diritto del lavoro. Assolutamente. Bene, logico. Allora io invito i miei radioascoltatori a visitare anche il sito di questo bellissimo paese che si chiama Novoli, il sito è www.comune.novoli.le.it. Le sta per Lecce perché appunto sta in provincia di Lecce e scoprirete che oltretutto ha un sito bellissimo, efficientissimo, addirittura congegnato per gli ipovedenti, quindi onore al merito dell'amministrazione. Roberto Galullo ringrazia ovviamente i suoi ospiti, l'avvocato Metrangolo, Alba Metrangolo, vice sindaco di Novoli, Giorgio Mattei in regia, Laura Fagin in studio e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.